prima di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di Giuoco per essere padroni di Giuoco. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sapete sul diritto. Diritto in allungo, sembrava definitivo l'attacco di Federer, sembrava non dovesse nemmeno arrivarci Seppi, invece l'ha agganciata, l'ha messa in lungo linea e alla fine Andrea Seppi riesce nella sua più grande vittoria, ma è da tanti anni che il tennis italiano non aveva una vittoria del genere, perché è vero, lui in carriera aveva già battuto Rafa Nadal, ma vincere contro Roger Federer in uno slam ha davvero tutt'altro sapore. Incredibile, va forza a condurre questa gara stupenda. 122-1 la sua velocità, da battere 1-10 e 33 ce la può fare. Forza Dominic, 34 centesimi al comando Dominic Paris. Abbiamo girato pagina. È successo il suo disastro, tra virgolette, una settimana fa, 5 giorni fa. In 5 giorni un altro mondo. Grandissimo Paris. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, il nostro autore, Fabio Cantadore in regia, Daniele Buonamici in redazione. Azzurro è il colore del giorno, non solo perché di questo colore, per fortuna, dopo tanto grigio è il cielo sopra Milano, ma perché al tennis italiano è riuscita un'impresa ai confini dell'immaginazione. Ogni tanto capita, Andrea Seppi batte il re Roger Federer all'Australian Open. Al terzo turno 6-4, 7-6, 4-6, 7-6 con un ultimo punto clamoroso. Se non l'avete visto vi consiglio di farlo, YouTube, tutta la tecnologia che volete a disposizione. Vi abbiamo fatto sentire il commento di Eurosport, però è qualcosa da vedere perché è il sunto di un'impresa storica. Prima volta che un italiano elimina il re Federer da uno slam. L'ultima volta che era stato battuto volando in Roma 2007, ma non un torneo dello slam. E poi Dominic Paris che vince il Super G nel Maracanã dello sci, e cioè a Kitzbühel. Azzurro è il colore del giorno, il colore di questo venerdì. Il mio amico Giovanni Capuano che è qui con me. Ciao Giovanni. Ciao Carlo. Mi suggerisce mano destra sul cuore. Il venerdì dell'orgoglio italiano. Venerdì dell'orgoglio italiano. Siamo anche un paese perché meraviglioso, anche perché si può partire da Nocera Inferiore. E poi? E poi tentare la scalata alla FIFA. All'Olimpo del calcio. Da Nocera Inferiore. Mino Raiola si candida alla sfida con Blatter alla presidenza. Un altro svizzero, FIFA. No, non è lì dove caricare. Io se posso mi candido, poi vedremo dopo. Adesso non so se è possibile, perché non è tanto facile come sembra, perché sai, sfidare un sistema non democratico, chiuso, una specie di massoneria come la FIFA, non è facile. Perché però io ho detto ci devo provare, ci proverò. Hai capito? Non è facile, però se Seppi ha battuto uno svizzero che era impossibile, sì, come Federer, vuoi che Mino non batta uno svizzero come colpo Blatter? Di stato, colpo di stato all'insegna della democrazia, magari con l'aiuto l'appoggio dei caschi blu. Sì, no, l'Italia è un paese straordinario, che è anche il titolo di quel video che qualche ora fa Renzi ha portato a Davos, sai dove? Sì. In Svizzera. Perché poi tutto si lega, secondo me, in questo meraviglioso venerdì degli italiani. E iniziava con due mani sporche di sì, farina, e con scritto siamo solo pizzaioli. Non siamo solo pizzaioli, tra qualche mese saremo presidenti della FIFA. Ma vorrei che le elezioni fossero oggi, per votarlo tutti insieme in coro all'unisono, Mino Raiola presidente della FIFA, anche voi, 800 24 00 24, e guai a chi non è d'accordo, per votare la presidenza della FIFA, perché in questo giorno magico in cui Seppi batte lo svizzero Federer, Mino Raiola vuole sedersi, vuole andarsi a sedere su quella poltrona in Svizzera, che però non vorrebbe più in Svizzera. Dice: se vinco io la FIFA la porto via. Ci può stare. Sì, ci può stare dove? A Napoli? Non lo so. Vicino a Nocera? No, magari a Monte Carlo, magari in un paradiso fiscale, in un paradiso alle Cayman Island. Sei malizioso? No, io mai. Tra poco ci colleghiamo con Pardo, che è in volo su Lazio-Milan, che commenterà domani. A proposito, esame decisivo per Inzaghi, che sta parlando, poi ve lo facciamo sentire. e ha detto che Berlusconi lo chiama due volte al giorno, come neanche la mamma. E non ha detto, ma la notizia gli è stata recapitata, che riavrà un da in fretta, perché è stato eliminato dalla Coppa d'Asia. Tra l'altro ha tirato un rigore sulla stratosfera, pare, sì, lui, quello, uno di quelli decisivi, e quindi Onda torna a Milanello. La famosa abbondanza degli esterni del Milan tra qualche giorno sarà abbondanza vera, e poi vedremo. Mi risulta ad esempio che domani contro la Lazio stia fuori il Shaarawy. Montolivo giochi regista, come è giusto che sia, e come gli hanno chiesto un po' tutti a Pippo dopo le ultime partite. Siamo alla terza inversione a U. Sì. Da settembre, sì, però non, rimane, benissimo, non benissimo. Dovrebbe rimanere Menez falso 9, perché questa fissa non gli passa. Il Shaarawy fuori, quindi Cerci Buonaventura. Quindi Cerci Buonaventura con un centrocampo di corridori insieme a Montolivo che fa il regista. Sì. Poi vedremo, poi vedremo domani sera. Allora, ci fermiamo su Pazzini. Pippo ha dichiarato, fammi vedere, che Giorgio De Luca mi ha mandato queste parole: nelle ultime due partite ha giocato, abbiamo due partite in tre giorni, una la giocherà titolare, l'altra per 30-45 minuti, è fondamentale. Queste le parole di Inzaghi ora pronunciate su Pazzini. Traffico. Ha una delle mie idee di togliere anche la FIFA dalla Svizzera, di portarla in un paese molto più trasparente, con dei controlli più trasparenti anche sotto l'aspetto finanziario. 1, 2, 3. Tutti convocati. La realtà dei fatti è che io per Allegri ero come giocatore, come tua coppa e briscola bastone. La verità, ero la quinta, sesta, settima punta, non lo so. Lui mi diceva che non mi poteva promettere niente, va bene. Ok, non mi prometti niente, però almeno fammi sentire importante. Siccome io questa importanza non l'ho mai notata, che, ripeto, contavo come due a coppa e briscola bastoni, dal momento che io vedo che l'aria non è quella buona per me, devo cambiare. Perché questa cosa dei soldatini? No, io volevo dire soltanto che lì sono troppo professionali e professionisti, cosa che io nella mia carriera non sono mai stato. Poi si sono offesi un pochettino, ma non volevo attaccare né la Juve né i calciatori, però naturalmente si sono offesi, amen. No, i soldatini, ripeto, nella Juve quando giocavo io e anche adesso ci sono dei seri professionisti, non si tratta di essere soldatini, quindi gente che è professionista, sa quello che vuole, sa quello che vuole la Juve prima di tutto, e quindi si comporta in maniera tale per cercare di vincere, e poi a volte ci si riesce, a volte no, però non si tratta di essere soldatini, si tratta di fare il proprio dovere, quindi allenarsi bene, curarsi fuori nella vita privata per rendere al meglio durante le partite. Comunque il rapporto con la Juve è un rapporto di fair play. Ma io non ho nessun tipo di problema, né con la Juve, né col Milan, né con il Genoa, né con altre squadre al mondo. Io son felice e contento all'Inter, e per me basta solo l'Inter. Basta solo l'Inter quando era all'Inter. Cassano, anche il mercato Carrera, è meraviglioso. Meraviglioso, perché c'è questa suggestione apparsa ieri della ipotesi di Antonio Cassano alla corte di Allegri a fare il soldatino. Avevo capito da Pier che si erano lasciati bene lui e Allegri. Così dice Pardo. Ci fidiamo. Adesso arriva, è in aeroporto. Tra poco lo peschiamo come Tom Hanks. Intanto, Carlo Pallavicino, storico procuratore italiano e storico amico di Radio 24. Ciao, Carlo. Ciao, carissimo. Come va? Molto bene, tu? Bene, grazie. Tu ci credi? Cassano alla Juve? No. No? Ma, credo più a Babbo Natale a questo punto, perché chi? Io non dimentico che Marotta ce l'ha avuto Cassano, quindi in qualche maniera, insomma, sì, l'ho conosciuto, ne conosce i pregi, ma ne conosce anche qualche piccolo difetto. Non credi una possibilità di normalizzazione a Cassano in leva, no, militare per sei mesi? No. Tra l'altro lo conoscono tutti alla Juve. Marotta l'ha avuto alla Samp, Allegri l'ha avuto al Milan, tre quarti dello spogliatoio l'ha avuto fino a qualche mese fa in nazionale, e non è andata benissimo da quello che è stato ricostruito. È tutto difficile. L'unica cosa che mi pare di aver capito è che davvero Cassano in questi 10 giorni farà di tutto per andare via da Parma. Questo mi sembra che sia l'unica certezza, Carlo. Anche se il Parma sta cercando tutti. Sì, anche esatto, perché da un lato c'è il fatto che comunque tutti a Parma sono in vendita e comunque ci sono le problematiche economiche che tuttora sussistono a Parma, quindi non è che il cambio al momento abbia prodotto dei benefici per nessuno, cioè si pensa, ci si augura tutti, ma i giocatori ancora devono riscuotere molti stipendi e comunque il futuro resta incerto. E poi ovviamente il Parma deve cambiare molto, ma sicuramente se ha delle richieste credo che debba valutarle con grande attenzione. Io non credo però che Cassano abbia delle richieste, questa è la mia percezione. Poi c'è questa cosa bella che stiamo scoprendo in queste ore, dei calciatori che telefonano agli ex compagni per sponsorizzarsi, cioè Osvaldo che sta telefonando a mezza Juve dicendo fatemi rientrare, Cassano che evidentemente qualche telefonata la sta facendo anche lui, Balotelli che è lì che sta marcendo in tribuna a Liverpool. È nuova così come moda o è sempre successo, solo che prima si diceva meno? No, è sempre successo, ma tu, per fortuna una volta c'erano meno trasferimenti. Oggi cioè, è allucinante pensare che uno come Osvaldo, e non è l'unico, se andasse al Milan ha fatto Juve, Inter e Milan, per non parlare poi della Roma e della Fiorentina. Cioè ormai quasi tutti i grandi giocatori hanno giocato in tutte e tre le grandi squadre, che è una cosa che una volta un trasferimento di un milanista a uno dell'Inter era una roba che ci si ricordava. Sì, Aldo Serena ci campa ancora di questa etichetta esatto. Che aveva giocato Juventus, lui aveva fatto tutte e quattro, quindi diciamo il poker non è facile. Osvaldo ha fatto un gol in rovesciata al Toro, se non ricordo male, contro il Toro, per cui potremmo aggiungerla come medaglietta quando avrà 40 anni, lo intervisteremo a ogni derby. Intanto la Fiore, che è vicino al cuore, ti sta un pochino, ricostruisce la coppia del Guangzhou. Gilardino ha detto sì e torna, Carlo. Anche questa, cioè io devo oggettivamente dire che Gilardino è sicuramente un giocatore che ancora in campionato italiano può fare cose importanti, però che noi non si riesca in Italia ormai ad andare a riprendere dei giocatori che ormai insomma in qualche maniera una qualche forza e qualità e l'hanno già espressa, oppure andare a prendere gli stranieri che spesso purtroppo non lasciano nessun impatto, a me questo fa molto molto effetto. Io non dico che si debba andare a pescare nella Serie B, perché poi per carità cioè, ci sono differenze di categorie e tutto, ma sicuramente cioè, oggi un po' più di fantasia ci vuole, perché o si va a cercare dei personaggi misteriosi in giro per il mondo o si riporta a casa gente che è a fine carriera, senza che nessuno se ne voglia offendere. Sì, Carlo, cosa sta succedendo al Paris Saint-Germain? Tu segui da vicino Sirigu, ma adesso leggiamo. Un giorno che Cavani si è scazzato con Ibrahimovic e andrà via. Oggi si legge che Lavezzi va via forse subito perché Blanc non lo vuole più. Lo stesso Blanc è praticamente esautorato. La squadra non sta andando benissimo in campionato. Cosa sta succedendo dentro lì? Ma diciamo una cosa, che storicamente almeno nel diciamo un paio di anni fa l'arrivo di questa ondata di stranieri comunque aveva creato un po' di ripercussioni all'interno del gruppo dei francesi, quindi era non semplice questo assemblaggio. Poi con Ancelotti le cose sono andate abbastanza a posto, i risultati sono arrivati e poi tutto si sistema, però è comunque un'integrazione sempre complicata, cioè giocare in una squadra di Parigi come il Paris Saint-Germain ormai essere praticamente i giocatori più importanti di quel club, per i francesi è comunque sempre un qualcosa che mandano giù a fatica, per cui è chiaro che se sei il Paris Saint-Germain sei felice e hai raggiunto un obiettivo importantissimo, se non altro economico, della tua carriera, e con quello maglia vuoi anche vincere, però per uno straniero comunque la sensazione che ci sia uno zoccolo duro di francesi e comunque un atteggiamento un po' sciovinista nell'ambito dei media francesi e tutto quello lo respiri, e qualche volta questi giocatori lo soffrono più che da noi magari. Ma Lavezzi negli ultimi 9 giorni di mercato è un giocatore spostabile da Parigi, soprattutto se deve venire in Italia con formule particolari, pochi milioni, soldi costerebbe 15-20 milioni e prende 4,5 d'ingaggio per la cronaca. Esatto, cioè mi sembra un po' come quelle cose che si danno un po' a credere ai tifosi. Quindi parliamo del nulla, noi che scriviamo e parliamo di Lavezzi, che possa interessare a qualcuno. Anche perché guardate che poi alla fine di tutto il Paris Saint-Germain ci stanno molto volentieri tutti. Beh, non è che cioè sembra che poi ci sia sti litigi, ste robe, ma in realtà ci stanno volentieri e ci hanno ben d'onde. Ma è un po' come i giocatori dell'Inter e del Milan e le mogli dei giocatori dell'Inter e del Milan, che per come vada in campo comunque a Milano ci stanno volentieri, che è uno dei problemi storici che affronta Gagliani a tutte le sessioni di gennaio, no? Esatto. Senti Carlo, un'ultima cosa, ti candidi anche tu alla presidenza della FIFA come il tuo collega? Raiola for president. No, io pensavo di combattere con Magalli per la presidenza della Repubblica Italiana. Volevo essere un po' ma cosa spinge Mino a fare questo passo? Cioè, abbiamo provato a capire che cosa gli possa passare per la testa. Nella testa. Guardate, cioè, io ho letto le dichiarazioni stamani e onestamente mi hanno abbastanza scolpito. Per cui non so, io ho una particolare simpatia perché il personaggio comunque è un personaggio veramente a tutto tondo. Però questa volta cosa si nasconde tra questa sua ultima provocazione, almeno riguardo i Blatter, che non è nella prima e non sarà l'ultima, stavolta così forte non me la no, perché ha logica, un procuratore, un agente FIFA non dovrebbe avere tutti questi interessi ad andare adesso per due mesi in tutte le TV, in tutti i giornali del mondo a dire che Blatter è un mezzo mafioso, che sono degli evasori fiscali voglia di democrazia, no? Dai, sì, no, Giovanni, però effettivamente poi capiremo che cosa c'è dietro al momento da un paio d'ore. Tanto Raiola candidato alla FIFA e Carlo Pallavicino alla presidenza della Repubblica Italiana. Comunque permettetemi di dire che tra Raiola e Blatter prendo Raiola. Ma anch'io, ma io non sto scherzando, ma sul serio, ecco. Io non sto scherzando. Assolutamente. Sì, però se facciamo il gioco delle percentuali e facciamo quelli seri per 5 minuti, quante chance ha di diventare presidente della FIFA? 0,0 no dai, 0,01 glielo diamo, no? Sì, perché noi lo sponsorizzeremo fino alla morte. Grazie Carlo. A presto. Ciao Carlo Pallavicino. Del resto abbiamo sponsorizzato Albertini quest'estate. Allora, l'Inter ha prelevato Brozovic dalla Dinamo Zagabria, è ufficiale, contratto di 4 anni e mezzo, domani il centrocampista a Milano. Questo è un grande colpo. Sì. Questo è un grande colpo, anche se probabilmente non è un giocatore pronto subito, cioè non è un giocatore che l'Inter può pensare di spendere. È un 92 se non sbaglio, quindi 22 anni, nazionale croato, è un giocatore che un mese fa piaceva molto al Milan, sì, che ci aveva provato, però l'Inter sul canale con la Dinamo Zagabria ha dei rapporti importanti e soprattutto Ausilio è riuscito negli ultimi giorni a piazzare un po' di colpi in uscita, quindi ha un tesoretto, sta facendo almeno sulla carta un buon mercato. Ti segnalo che l'Inter nelle ultime settimane ha giocato con una squadra con una media d'età vicina ai 25 anni e non giocando comunque con ragazzi della primavera, cioè c'è un progetto, poi noi mille volte e andremo avanti esprimiamo delle perplessità ed esercitiamo il nostro diritto di critica che è la base di tutto, però bisogna dire che dal punto di vista del ringiovanimento della squadra e di andare a cercarsi dei talenti in giro per il mondo, l'abbiamo visto con Kovacic, l'abbiamo visto con Icardi, ecco, Brozovic è un colpo che si inserisce in questa linea. Sì, ma certamente, ma l'Inter ha un progetto, però mi preme sottolineare come adesso abbia anche del grano da spendere improvvisamente. Se a Mazzarri non avrebbero comprato probabilmente nemmeno un nuovo magazziniere, a Mancini hanno già piazzato Podolski, Shaqiri e ora Brozovic in arrivo a Milano. Abbiamo un Inzaghi da far sentire, dicevamo, freschissimo, no, non ancora, arriva dopo Inzaghi, va bene, poi arrivano anche Jacopo da Ferrara. Sì, è una delle due telefonate quotidiane. No, oggi c'è il pranzo, eh. Oggi c'è il pranzo, quindi due telefonate più il pranzo. Visita di Berlusconi a Milanello. Due telefonate più il pranzo. Sì, media punti non altissima, nelle altre non lo 19. Sopporterei più nemmeno fosse la mia moglie, guarda. 800240024, il numero verde Jacopo da Ferrara, Roberto Provincia di Olbia, già in linea, a dopo. È da una botta di vita questa trasmissione. E noi la ringraziamo. Tutti convocati. Aspetta, parliamo di calcio che è la cosa più importante, facciamo critiche costruttive, critiche sul sistema di gioco, però non parliamo di altre cose che vanno a intoccare cose che non esistono, ecco, non vediamo fantasmi, queste cose ci fanno arrabbiare tutti e ci faranno rendere di più domani. sono molto tranquillo, mancherà De Jong che purtroppo si è fatto male, lì sia Montolivo che Sam, penso che giocherà Montolivo che è in una buona condizione, per cui insomma vedremo di cercare di far meglio di quello che abbiamo fatto l'ultima partita. Tutti sappiamo che è un momento per noi difficile, ma dalle difficoltà si esce col lavoro, con la voglia di fare. Anche perché peggio è difficile, caro Pippo Inzaghi. Parlato, ora non ho capito bene quali siano i fantasmi a cui si riferiva. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Dove sei? Sono in aeroporto. Raccontami tutto, fammi una telecronaca dell'aeroporto che ti circonda. Ah, c'è una signorina al telefono, io rileggio il giornale, credo La Stampa, no, Corriere della Sera, e poi gente che guarda il telefonino. Sì. Sì, società digitale, c'è anche uno che legge Milano Finanza lì, direttamente signor Draghi ieri ha fatto lo show, ha fatto Draghi, lo show, ha fatto lo show, le borse euforiche, ci voleva tanto a fare sto conto televisivo. Oggi è più affollata Vinovo però, perché sì, c'è Conte, poi c'è stato Mino Raiola da quelle parti che ha parlato fitto con Pogba per una cinquantina di minuti, ma soprattutto si vuol candidare alla presidenza della FIFA. Il futuro presidente della FIFA, no? Tu sei d'accordo? Tu sei d'accordo? Una grandissima candidatura di altissimo profilo, ma il cittadino italiano, cioè, vuol dire, per la presidenza della Repubblica non c'è niente da fare, non è italiano. No, vero? È troppo giovane. È troppo giovane. Al di là della credo abbia meno di 50 anni. No, ma poi abbiamo raccolto una candidatura per la presidenza della Repubblica, quella dell'amico procuratore Carlo Pallavicino, che è stato nostro ospite prima. Ha detto: vabbè, Raiola si candida alla FIFA, io alla presidenza della Repubblica. È troppo giovane Pallavicino, almeno 50 anni. Vabbè, ma noi lo candidiamo lo stesso. Allora, sembra più giovane di là. Tanto, c'è una gran voglia di democrazia, c'è una gran voglia di nuovo, no, Pierluigi? Ti candidi per qualcosa tu? No, io ti voto, comunque a prescindere. Ma io ti ringrazio, ma non è proprio, diciamo che non ho... C'è quello a cui piace molto il potere. Il potere piace molto. A me piace molto... Non piace molto il potere. Ho altri vizi, diciamo, ma non ho... Perché poi il potere si porta dietro... Ma anche, per esempio, in questa carriera qui, no, giornalisti, che sono quelli che sono più portati, più tagliati per una carriera da direttori e quelli che sono più tagliati per una carriera da presentatori, opinionisti, telecronisti. Cioè, la responsabilità c'è sempre, chiaramente, in tutti e due i casi, però, insomma, non ho questa passione per il potere. Se ti candidi tu, però ti appoggio. Peggio di te da questo punto di vista. Conte che a proposito, lui un certo affetto per il potere ce l'ha, bell'effetto tornare a Vinovo, rivedere i tifosi della Juve, mi fa sempre piacere sentire il loro affetto. Il loro affetto, ecco l'ho sentito, l'affetto. Ma sì, insomma, Conte ha fatto cose eccezionali alla Juve, adesso non è... Noi sosteniamo ogni giorno che il calcio è liquido, che si cambia idea e che poche cose sono mutevoli come il calcio, quindi anche gli umori. Però è bello che ci sia anche un po' di gratitudine. Adesso, al netto di un finale di partita che non è stato esattamente elegante, perfetto, sì, non è stato il massimo dell'eleganza. Poteva essere anche peggio in questi giorni. È rivenuta fuori la forte attrazione che il Milan aveva nei suoi confronti. Io penso, dal punto di vista del tifoso della Juve, insomma, il fatto che sia andato in nazionale e non a diretta concorrente sia stato apprezzabile, no? Certamente. Al di là della tempistica e delle modalità che non sono state sicuramente ideali. Certamente. Però io mi ricordo quello che dicevo e lo rivendico. Insomma, alla fine lui, secondo me, smaltita anche la brutta figura, se vuoi, no? Comunque lì è stato abbastanza inusuale quello che è successo, però insomma se n'è andato dopo due giorni dal raduno, consentendo comunque alla società di poter trovare un sostituto senza nessun problema. E infatti credo che ci stia dando ragione, perché poi alla fine Allegri è arrivato e ha lavorato esattamente come avrebbe lavorato se fosse stato chiamato una settimana prima, quindi dal punto di vista pratico non ha cambiato nulla. Non è stato bellissimo lì per lì, ma insomma io credo che siano nettamente più i ricordi dolci di quelli... Beh, questo ci mancherebbe altro, sono ancora freschi, è ancora sulla maglia il ricordo più dolce. Jacopo Ferrara, buongiorno. Pronto, buongiorno. Innanzitutto vi faccio i miei complimenti per la trasmissione. Grazie. Votiamo Mino Raiola, sì. No? Ma non lo so, saremo sinceri. Va bene, la convinceremo. Volevo la vostra opinione su una mia proposta per eliminare il bubone delle lamentele arbitrali. Primo, dare a disposizione agli arbitri affinché puniscano severamente ogni protesta palesemente ingiustificata e troppo plateale. Questa è la prima. Secondo. Sì. Secondo? Beh, però la prima era bella, adesso lascia perdere. Sì, no, sì. Sospettavo molto dalla seconda, però la prima pure. Jacopo? Sì? Secondo? Il secondo insomma, che la federazione dia disposizioni severe per evitare a tutti i tesserati di commentare alle televisioni e con i giornalisti il comportamento e le decisioni arbitrarie. Certo. Sì. Io chiuderei anche il bar a questo punto, se lei è d'accordo. Perché mi sembrano troppo democratici. No, sai, Pier, io stanotte Pier sono andato a dormire sereno, tranquillo, anche un po' felice, devo dirti la verità, dopo aver sentito Benitez, secondo allenatore, che è venuto qui e ci ha spiegato che non si parla di episodi arbitrali. Ma perché? E io stata... sono andato a letto, guarda Pier, ero veramente in pace con me stesso. D'altra parte, è stata la settimana degli aiutini. Ai 25 metri De Rossi cerca di scambiare con Ljajic, prova a prolungare per Paredes che poi va giù, arriva il calcio di rigore per la Roma e no, prende il pallone non Paredes, Paredes viene toccato dopo, non c'era il calcio di rigore per la Roma. Ci può stare. Per Vargas il cross dietro, attenzione al tentativo della Fiorentina. C'è il fischio di Valeri, la protesta dell'Atalanta, è stato assegnato calcio di rigore per un fallo su Gomez, effettivamente molto generoso, diciamo che non c'era questo calcio di rigore. Ci può stare. Abilissimo nel tocco e nella ripartenza Shaqiri che va a cercare Icardi, il controllo non era stato dei più felici, poi Icardi è andato giù e c'è Rosso. Espulsione per Krstičić, rimane in 10 la Sampdoria, Tagliavento ha estratto il rosso, la Sampdoria rimane in 10 ed è in pratica una gara ad handicap per i blu cerchiati. Ci può stare. Il traversone dove c'è Zapata che va a cercare spazio e c'è ancora rigore per il sandwich proprio ai danni del colombiano, ancora rigore per il Napoli, questa volta ci sono più dubbi sul rigore, se il primo rigore concesso al Napoli era sacrosanto, questo lascia qualche margine di dubbio in più. Ci può stare. Scrive Maurizio Crosetti oggi su Repubblica, cos'altro bisogna inventarsi perché le grandi arrivino in fondo alla Coppa Italia senza patire il minimo disturbo, per scongiurare eventuali golpe dei più derelitti, c'è come il sospetto che un fortissimo gradimento del palazzo possa condizionare, se non proprio orientare, pure gli arbitraggi. Nel dubbio si sbaglia quasi sempre dalla parte del più forte, è una regola antica come il calcio, ma in questa Coppa Italia sembra una legge biblica scolpita nella pietra e senza deroghe. Pierluigi. Diciamo che gli arbitri si sono allineati a quella che è la filosofia della Coppa Italia, e questo Crosetti ha ragione, io ribadisco quello che penso, perché non è che in campionato dico una cosa e in Coppa Italia dico un'altra, io non penso che ci sia la malafede, però è un dato di fatto che quasi tutte le grandi in questi ottavi di Coppa Italia hanno ricevuto dei favori, già giocano in casa una partita secca, e la sensazione è che ci sia... Cioè, a qualcuno può venire anche il sospetto, no? Che ci sia un disegno, a me non viene. Sì, lo metteranno nel regolamento, giochi in casa fino agli ottavi di finale, più rigore più espulsione, più rigore più espulsione, così è più semplice. Invece dal punto di vista, per mettere un po' di zizzania, devo dirti che il tipo di mood, il tipo di clima che c'era stato dopo Napoli-Juve, che era stato il clima della caccia alla Juve, no? Dal punto di vista di torti arbitrali, in 10 giorni è cambiato tutto, nel senso che prima la Juve ha vinto 2 partite, d'accordo, con Verona, che non è una squadra in un grandissimo momento, però sono vinte con quell'autorità lì, e quindi c'è stata, diciamo, prima una risposta sul piano del gioco e della critica, e poi devo dire che queste 2 settimane di Coppa Italia è stata, proprio perché ha vinto così bene, una delle poche grandi che non ha avuto situazione arbitrale a favore, e ci siamo trovati appunto nella situazione di Garcia o Garcia, decidete voi, io ho mai capito, e Benitez, che si sono trovati un po' in conflitto, secondo me in contrasto con il loro personaggio. Però ne sono usciti bene, ne sono usciti in maniera coerente. No, le battute, no, per me non ne sono usciti. No, ma era chiaramente ironico. Tra l'altro io contesto anche il fatto, Pier, che Benitez sia un allenatore che storicamente in carriera non ha mai fatto leva sulla questione arbitrale. I giornali inglesi raccontano anche qualcosa di diverso, di conferenze stampa con in mano un paio d'occhiali e altre cose alla Mourinho. È vero, ma io ti ribadisco che questo per dire che tutto il mondo è paese. Sinceramente ho trovato lo sfogo dopo Napoli-Juve un po' eccessivo, al di là del fatto che il gol era in fuorigioco. lo dico con chiarezza, insomma, e che sicuramente un altro paio di situazioni, il famoso retropassaggio di Chiellini alla cieca verso il portiere, insomma, il famoso fallo di Pirlo all'inizio, eccetera, eccetera. Detto questo, ho trovato un po' eccessive, per quello che era successo in campo, le critiche di Benitez e il clima anche mediatico che attraverso De Laurentiis il Napoli ha creato in quella circostanza. Poi però, secondo me, se tu prendi quella parte, ed è esattamente lo stesso discorso che passa da Garzia, poi la volta in cui c'è l'aiutino, tu devi dire, io non sono come voi. Io ho letto in questi giorni su Facebook, su Twitter, tanti tifosi della Roma che dopo quel rigore lì dicono dal loro punto di vista, io non sono come voi, non mi piace vincere così, il rigore non c'era. Punto. Sentire l'allenatore della Roma, l'allenatore del Napoli, che dopo aver ricevuto un favore arbitrale che ci può stare, la vita lo uso proprio per le persone lì perché ci può stare. Rivendica la legittimità del rigore. Insomma, cioè se tu hai comunque porti una questione morale, legittimamente, anche perché poi insomma dal punto di vista di Garzia di Benitez i torti ci sono stati, la porti all'attenzione dell'opinione pubblica, però poi secondo me dal punto di vista dell'efficacia. Quando ti capita, perché ti può capitare un aiutino o un aiutone arbitrale, devi dire oggi siamo stati contati con l'arbitro. Certamente. Perché se non lo dici, secondo me. Perdi credibilità nel momento in cui è qualcosa da rivendicare. Se vi può interessare, poi vi lascio al traffico. Dei fantastici quattro della Coppa Italia. L'unico che domenica sta a casa a guardare il calcio in TV è Di Bello. Quello di Roma-Empoli, perché tutti gli altri tornano in campo o da primo arbitro come Tagliavento o da addizionali, quindi significa che fondamentalmente le loro prestazioni sono state giudicate sufficienti. Certo è che Milan-Lazio-Inter-Napoli, Roma-Fiorentina, Juventus-Parma, con la possibilità magari di avere un derby di Milano da una parte e Juventus-Roma dall'altra, per chi guarda la Coppa Italia anche in televisione, per tutti quanti, è un bel vedere. Traffico. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Roberto Olbia, buongiorno. Sì, salve, mi sentite? Sì. Ah, ok. Io volevo parlare per quanto riguarda questa crisi senza fine del Milan, diciamo. Sì. Essendo tifoso. Allora, volevo dire che la cosa più importante arrivati di questi tempi è il portare il signor Sacchi a Milanello. Dobbiamo accontentarci di vedere Sacchi a Milanello tra pranzetti e cose del genere. E poi l'importante è quello, diciamo. Poi a Inzaghi volevo dire che comunque il pavimento dell'inferno l'ha stricato di buone intenzioni, nel senso che il suo mea culpa è molto struggente e patetico, ma se pensasse solo al suo stipendio direbbe pubblicamente che non si fanno le nozze, cioè una squadra decente con fichi secchi e bidoni e quant'altro. Poi volevo anche dare un messaggio a tutti gli amici miei milanisti, diciamo, e volevo dire di non essere tanto felici del fatto che Berlusconi smentisca che il Milan non è in vendita, perché noi dobbiamo sperare che il Milan sia in vendita e che qualcuno abbia la voglia di investire con questa squadra, perché fin quando rimarrà il signor Berlusconi non si farà mai più niente. Mai più mi sembra un avverbio eccessivo, perché come insegna Pardo, il calcio è materia liquida anche dal punto di vista gestionale. Quanto a Inzaghi fa con quello che ha, quindi, e poi il suo stipendio lo stipendio è chiaramente un granché rispetto a quello che spendiamo meglio, rispetto ai colleghi allenatori, rispetto alle leggi di mercato. Non sono d'accordo sull'elemento legato a Inzaghi. Cioè, Inzaghi prova a difendere il suo lavoro, prova a difendere la squadra, prova a andare avanti, aspetta una svolta. Che deve fare Inzaghi? Scusate, adesso sinceramente non può parlare come Seedorf, altrimenti probabilmente farebbe la stessa fine di Seedorf qualche mese fa. Dire apertamente, mi pare di aver capito, poi magari lo sentiremo dopo, che gli sia stato riproposto oggi il tema di quella frase che lui avrebbe detto, cioè che questo Milan non può giocare un gran calcio, e lui oggi ha cercato un po' di tornare sui suoi passi, ha detto non è vero che io ho detto che questa squadra dobbiamo abituarci, che non possa giocare un gran calcio, dovremo farlo, ma ci dobbiamo arrivare per gradi. Mi sembra anche questo una piccola biura, Pier. Poi rimetterà Montolivo in mezzo al centrocampo. Noi facciamo il programma, siamo felici e ci piacerebbe magari avere 5 collegamenti al giorno con i 5 allenatori top che ci sono in Italia, no? Non li possiamo avere, però cerchiamo di fare un prodotto che è buono. Perché adesso proviamoci, vedrai che domani è sabato, ce ne avremo tutti, cioè, ognuno difende secondo me il suo lavoro. È chiaro che qui, insomma, credo a differenza di tutti i comunati, il risultato in questo momento è chiaramente non soddisfacente, e quindi lui cerca di parare i colpi, cerca di parare i colpi mediaticamente, fa quello che può fare, insomma, però io non ci vedo niente di sbagliato o di falso, fa quello che può, la squadra lo sappiamo benissimo che non è un granché, lui non può dirlo perché finirebbe per deprimere il gruppo, per scaricare il gruppo, e poi voglio dire, lui comunque ha accettato una sfida 5 mesi fa. Sì, i giocatori li conosceva, adesso prendiamo Cristiano Ronaldo e Messi, non so, no, gli hanno preso almeno Torres, che sappiamo come è andato questa vez, preso 2 anni fa, no, però capito, e quindi fa quello che può fare, poi magari sicuramente si aspettava che i risultati fossero diversi, Ma sentirlo dire che Pazzini giocherà un po' sì un po' no queste due partite con la Lazio perché ha giocato le ultime due, poi in realtà lui titolare è partito solo una volta nelle ultime due. Sì, ha detto che due partite ravvicinate, una la gioca da titolare. Ad esempio, a me fa venire in mente come prima cosa che questo significa che il Milan deve prendere una prima punta sul mercato subito, in fretta. Poi però, se faccio un po' il malizioso, Pier, mi viene in mente che forse lui questa storia della prima punta pesante, lui Inzaghi non l'ha ancora metabolizzata, non è ancora il suo calcio, e torniamo indietro di 2 mesi. Non si fida di un calcio. Non è che sia questa prima punta così pesante, pesante nel senso, un numero vero. Di ruolo. Ma insomma, ragazzi, a me non ha contato una storia diversa, cioè Milan ha comprato Torres che ai tempi d'oro era numero 9, proprio numero 999, di quanto era 9. Quindi voglio dire, se l'idea era quella, è perché evidentemente nel calcio di Inzaghi c'è la possibilità di giocare un attaccante, a parte il fatto che proprio Inzaghi penso che sappia che gli attaccanti servono, sarebbe un paradosso se lui non li volesse, ma di questo aveva parlato lungamente. Sì, poi Pazzini col Sassuolo era la prima volta che metteva piede in campo al primo minuto, scelte di Inzaghi. Venezia è stato adattato in quel ruolo lì, ne parlavamo l'altro giorno con Ando, così, insomma. Venezia è adattato in quel ruolo lì, sta facendo cose importanti, perché ricordiamo la stagione, è certamente il migliore del Milan, però non può più giocare nel suo ruolo. Sembra che non sia una priorità per Inzaghi, che sposta giustamente Montolivo al centro del villaggio, e non ci voleva molto capire che questa mossa fosse fondamentale perché Milan non riesce a ripartire. Poi invece lo schieramento davanti rimane così com'è almeno domani sera contro la Lazio. Ciao Pier, buon viaggio. Ma io ci sono un altro po', perché volo in ritardo, quindi noi stiamo facendo il traffico, che ne sono? No, adesso abbiamo il GR, sono le 14.54, 54 secondi. E noi ci riproviamo. Ma certo, un saluto dal posto 19A. Grande, a dopo. Ma mente folleggia le di Achille, c'è chi non corre, non fa faville, che tutto passa il tempo in tanti ospedali. Non la ricordo tutta. Buongiorno a tutti, compresa la mena marcia. Tutti convocati. Scusate perché stavo leggendo una nota che arriva da agenzie di bookmakers per Sumino Raiola, che ha detto di volersi candidare alla FIFA, pronto a investire 5 milioni di euro per finanziare il suo progetto. I bookmakers internazionali raccolgono la sfida e la rilanciano in lavagna, bancando a 2,21 la candidatura ufficiale di Raiola. Il no è offerto a 1,50. Beh, 2,21 candidatura che ha una sua dignità. Abbasseremo questa quota. Parda in volo? C'è? Non c'è? Proviamo a recuperarlo. Ti posso dare dei dettagli su Marcelo Brozovic, sì, che è un po' l'affare che sta tenendo banco in questi minuti anche sui social, tra l'altro meravigliosa doppietta del Corriere dello Sport, che il 24 dicembre fece la prima pagina: Podolski va all'Inter, mentre gli altri scrivevano Cerci, e Podolski è arrivato all'Inter, e questa mattina ha aperto con Inter, ecco Brozovic, e Brozovic è arrivato all'Inter. Allora, fino a ieri sera Brozovic era un giocatore più vicino al Milan, poi Ausilio ha affondato il colpo, ha superato il Milan, questa mattina ha avuto quasi la certezza di poter prendere questo talento croato, ha provato a inserirsi il Napoli, ma a quel punto c'era già l'accordo. L'Inter l'ha preso con la formula del prestito per 18 mesi e riscatto obbligatorio nel 2016, il che alleggerisce anche dal punto di vista del bilancio l'operazione di Ausilio, un riscatto che dovrebbe essere stato fissato intorno agli 8 milioni. Per Brozovic, contratto fino al 2019, 4 anni e mezzo, e cioè il massimo che si possa fare secondo le leggi italiane. Saulo Verona, mentre c'è un ascoltatore che scrive: gli aiutini distribuiti a tutte le big in Coppa Italia fanno parte di un disegno per potervi far dire hai visto? Lo diciamo, hai visto? È il sistema, no? È il sistema. Ma piace a tutti la Coppa Italia con le grandi, così ma sono possiamo, d'accordo con così Prosetti. Possiamo giustificare anche gli aiuti alla Juventus in campionato. Ma quale aiuta la Juventus? La Juventus non ha aiuti in campionato. Dai, fa il bravo. Io sono d'accordo con Crosetti, si potrebbe sorteggiare dall'inizio le due finaliste purché abbiano chiuso il campionato tra le prime quattro, oppure si potrebbe decidere subito per Roma-Juve, andata all'Olimpico, ritorno a Torino, eventuale bella a Dubai, meglio tardi che mai. Ci Saulo, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Volevo fare una considerazione sugli arbitri. Sì. Vedi aiutino la Roma ultimamente qua in Coppa Italia. Non solo alla Roma, alla Roma, all'Inter, alla Napoli, Napoli, alla Fiorentina. Sì. Sì. Sì, ok. Volevo sapere, io ho un figlio che gioca, diciamo, in Serie D, no? Queste cose succedono quasi tutte le domeniche, diciamo. E non vengono mai dette. Praticamente anche la nostra squadra domenica si sono stati negati due rigori nettissimi, fatalità, l'assistente è corso verso il centrocampo convinto che era gol, l'arbitro invece no, anche perché per le squadre quelle un po' più nominate, quelle che devono salire, diciamo, la Serie D, Lega Pro, così, no? Sì, sono beh, ma c'è un altro chiaro esempio su distanza psicologica, anche quella, no? Ci sono magari squadre raccomandate dai poteri forti, hai visto mai? E quindi chiediamo a Macalli finché c'è Macalli, perché pare, ma lui sta lì aggrappato. Sì, sì, anche lui in fase di trasloco. Aspetta a dirlo. Ciro Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi, sto a Bologna in viaggio, sono di Napoli comunque, sì. Non mi stanco mai di dirvi che siete dei favolosi e siete grandi. Grazie. Volevo fare due domande, ma c'è Pier? No, Pier è in volo, cioè stiamo provando a chiamarlo, però come abbiamo detto, cronaca vera, sta prendendo l'aereo per andare a Roma domani sera, sì, commenta Lazio-Milan. E quindi il collegato è praticamente dall'aereo, credo che sia intervenuta la polizia aeroportuale e adesso non c'è. È uguale, gli puoi mandare anche tuoi saluti a mia mamma che c'ha 96 anni, ha fatto io 96 anni e vi sta ascoltando. Grandissima, la salutiamo tutti. Dica. Volevo la prima domanda, volevo dire, quest'anno qua a giugno Benitez se ne va e chi viene a posto di Benitez è sicuro. Ah. E poi la seconda la volevo fare a Pietro, perché mia mamma l'ha visto per televisione. Ah. E ha detto, mamma mi suvicirilli napoletano, me ne proprio sciupato, fallo vedere a mangiare, ci mangiano un bello piatto in ragù. Guardi, non glielo consiglio, gli svuota la dispensa. Le assicuro, visto l'ho visto ieri. No, guardi, l'ho visto ieri, è in forma smagliante. Pardo, l'abbiamo controllato. Comunque, noi tagliamo questo pezzo e domenica gli facciamo rispondere in diretta. Certamente, alla mamma. Quindi domenica, 17-19, se la mamma ascolta, avrà la risposta di Pier. Teniamo, conserviamo il suo intervento. Gireremo la sua domanda in leggera differita al diretto interessato per Luigi Pardo. Comunque, sciupato non è, glielo assicuro. Siamo stati in Spagna? Comunque Benitez credo che vada via, Va via, va via. Leo Messi, él va a ser el encargado de chutar ese penalti bajo palos, como decíamos, el esloveno Jan Oblak. Minuto 83 de partido, casi 84, recta final de este encuentro y le va a pegar Leo Messi. Ahí va el argentino, para los Jan Oblak, marca Messi, gol. Gol. Creo que será muy excitante. Es un sueño que se está cumpliendo. El poder entrenar con este club es increíble y un sueño. E questo bimbo che parla si chiama Odegaard, ragazzino norvegese che ieri è stato presentato in pompa magna del Real Madrid, 16 anni, contratto per lui di 6 anni, lavoro per il papà, famiglia, tutto a posto, e pochissima pressione sul baby fenomeno che tutti dicono è il nuovo Messi. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Tu l'hai visto ieri, so che eri lì alla presentazione del ragazzino, eravamo d'accordo. Sì, era la voce della traduttrice che era abbastanza in difficoltà, ovviamente io non lo maneggio così bene il norvegese, però il ragazzo diceva solo incredibile e sogno. Ha parlato a lungo e le parole che uscivano erano solo queste, quindi non so, ci siamo sicuramente persi qualcosa. Ma parlava dell'ambiente o della paghetta che da oggi prende? Secondo me della paghetta. Beh sì, è chiaro, o di tutte e due comunque, è chiaro, perché è passato da allenarsi con i simpatici compagni del Strømsgodset. Strømsgodset, sì, nome bellissimo, Strømsgodset. Sì, è passato così ai ragazzi che ci sono qua a Valdebebas, come Ronaldo e compagnia. Ma io trovo incredibile un paio di cose, oggi no, un po', l'ho anche scritto. È la prima volta che c'è un calciatore che va lui a prendere in esame le squadre. Cioè, sì, è stato lui andare in giro a fare i test, perché non erano loro che lo provavano. Lui ha fatto, cioè, veramente il giro delle sette chiese, e tutte sette chiese rinomatissime, ed era lui che vedeva un po' com'era la situazione, poi ha scelto quella che gli piaceva di più. E l'altra? Ha fatto l'Interrail. Sì, ha fatto l'Interrail, o ha fatto come fanno gli americani, i giocatori che escono dal college vanno a visitare varie università e scelgono quella che gli piace di più, solo che non prendono soldi. Sì, sì. E poi l'altra cosa è che veramente in Norvegia stanno a pezzi, cioè, a livello proprio anche sociale, perché adesso vedi, dare tutto sto spazio. Ieri, cioè, Valdebebas sembrava Oslo, insomma, era pieno di norvegesi, due dirette televisive. Sì, il ragazzo, voglio dire, sì, c'hanno il giocatore di scacchi, no? Kansen, e poi c'hanno Odegaard, sì. Però mi sembra strano, insomma, perché non so se lo merita tutta questa attenzione. Poi potrà essere anche un buon giocatore e tutto quanto, ma non ha ancora fatto nulla. Tra l'altro io non è che ricordi nella storia del calcio dei norvegesi che hanno scritto la storia del pallone. C'è sempre una prima volta. La cosa. Sì, infatti, cioè, un conto, sai, gli svedesi, non so, potevano andare al Grenoli piuttosto che a giocatori più recenti, magari qualcuno che ha fatto bene c'è. Ma i norvegesi nessuno, chi è il giocatore migliore? Solskjær, esatto, anch'io pensavo a lui. Però vedremo, io ti dico, il Madrid per me ha fatto benissimo, perché tanto alla fine spenderà un po' di soldi, ma a parte che ne incassano a bizzeffe, insomma, spendere di qua o di là non cambia molto. Se gli va bene, gli va bene, e se non gli va bene, colpa del ragazzo che non ce l'ha fatta, insomma. Questo è un po', io lo vedo come, sai, quei grandi contratti a Hollywood, poi se il film non va, l'attore finirà dove finirà. Sì, in fondo hanno fatto bene anche i signori Odegaard, cioè è meglio cominciare a monetizzare subito, perché a 16 anni tu puoi anche essere in pieno sviluppo, magari fra 4 anni sei semplicemente uno che da ragazzino era una promessa, così Odegaard si mette al sicuro il futuro, sì. Lui è per qualche generazione. Senti. Io pensavo, sì, tu guarda, giusto perché, cioè, l'anno scorso è esploso Jesse, no? Giocatore fenomenale, cioè, stava facendo molto molto bene, è arrivato in prima squadra, ha fatto bene, è brutto infortunio e adesso fa una fatica matta, cioè il calcio purtroppo è, no? Sì, sa essere molto bastardo, ma questo lo sappiamo. Vedremo, sono molto curioso, da quello che ho sentito mi hanno parlato molto bene, cioè lui il casting, cioè, oltre a fare il casting alla squadra, si è fatto vedere qui e in un paio di giorni in allenamento ha dimostrato un grandissimo talento. Poi da lì all'essere nuovo Messi ne passa un pochino. Intanto Messi, quello vero, l'altra sera ha sistemato la prima pratica Coppa del Re con Atletico Madrid 1-0, andata dei quarti di finale, è tornato a fare il vomitino in campo. Torres invece, molto atteso, non è stato esattamente quello del Real che ha giocato il Real Madrid. No, Torres anche tornato, lui è quello tornato, del Milan anche è tornato. Ho visto la pagella di Filippo sulla Gazzetta 5. Dello Sport 5. Primo nel secondo minuto del secondo tempo entra Mandzukic. Esatto, un po' rosso-nero è stato il povero Torres, sì, o anche un po' blu come il Chelsea nell'ultimo periodo. Non so, già l'abbiamo detto la settimana scorsa, quello che doveva fare l'ha fatto, due gol al Bernabeu e va bene così. Partita complessa l'altro giorno, anche per me, anche Messi non ha fatto la stessa partita di, diciamo, della sfida di Liga contro l'Atletico, che era stato eccezionale, ha faticato anche lui. Messi, c'è un dato per me eclatante: 7 partite contro l'Atletico a cavallo della scorsa stagione e un pezzo di quella prima, non aveva mai segnato. Qui già siamo a 2 su 2. Sì. Mostra una voglia che non gli si vedeva dai tempi di Guardiola. Dopo la gastroenterite, il Barcellona viaggia a 17-1, 17 gol fatti, 1 subito e 5 vittorie di fila. Il mal di pancia, diciamo, passato, mal di pancia passato, tornato a fare il vomitino in campo, come abbiamo detto, ma mal di pancia passato. Buoni segni, buoni segnali per. Sì, per Luis Enrique che schiuma, Luis Enrique schiuma, perché ogni volta gli fanno le domande su Messi e non risponde. Figlio mio, deve abituarsi. Cosa vuoi che gli chiedano del tempo? Non ho capito. Luis Enrique, prima domanda: Messi, come la mettiamo? Avete fatto la pace? Vi siete parlati? No. Però cara, fa giocare, perché a me mi sembra Fonzi quando non riuscì a chiedere scusa, perché adesso sono 3 partite che mette giù la stessa formazione, perché è giusto, perché finalmente gli hanno detto: senti, basta, cioè, questi sono quelli buoni, giocano questi, no? Dopo ha fatto per 28 partite, ha sempre cambiato formazione. Gli ha detto: mo basta. Fino adesso hai giocato con il subbuteo, adesso piantala lì, giocano questi e fai il bravo. E fai il bravo. Esatto, no? Gli dicono: ma allora hai scelto la formazione tipo? Io non ce l'ho la formazione tipo. Ti giuro, siamo le lacrime agli occhi. Vuoi dire, dai, puoi anche dirlo, puoi anche chiedere scusa, come è forza, no, cioè, alla fine ce l'ha fatta. No, dai. Non ce la fa, però nei fatti fa quello che deve fare il povero Luis Enrique. Ciao Filippo, prossima volta parliamo di Coppa d'Africa anche un po', con Gervinho che tira le pizze in campo, 2 giornate di squalifica, chi trova le forbici, Malik Camerun, Bacalè Sokoka, trovato per terra un paio di forbici, qualcuno che le ha perse in campo. Ciao Filippo. Ciao. Allora, tu con Filippo Maria Ricci. Allora, abbiamo un ospite, perché allora la notizia di cronaca l'abbiamo data prima ed è splendida, azzurra come il cielo di Milano di oggi, non solo Andrea Seppi, ma anche nel tennis, ma anche Dominic Paris che vince il Super G di Kitzbühel, ma abbiamo Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Carlo, buongiorno. Che rappresenterà se stesso, nonché Radio 24. È bene puntualizzare. È bene puntualizzare. Alla più importante manifestazione fondistica italiana prevista per domenica. Ci dissociamo. Assolutamente. Ci dissociamo. Assolutamente. Io invece contavo sulla vostra presenza, una destra e una sinistra. Sì, la marcia longa, ma marcia soprattutto longa. Al di là della mia inutile presenza. Voi parlavate dei norvegesi un attimo fa, di questo gioiellino, ascoltavo con interesse. Beh, qui pensate che la marcia longa va sistematicamente raccontata, viene raccontata dalla televisione norvegese, svedese, scandinave, oltre che dalla Rai, peraltro sarà in diretta. Ma insomma, stiamo parlando del più grande evento degli sci stretti in Italia. 8.000 persone, solo perché il numero è chiuso, sì. Una avventura che ogni anno da 42 edizioni insomma si ricrea nelle valli di Fassa e di Fiemme. Un grande evento sportivo, e immaginatevi in un anno come questo. Piccola specifica, scusa Carlo. Sì. Questa è una gara in linea, e nel fondo ci sono di fatto 2 grandi tipi di gare, quelle in linea e quelle in circuito. Immaginatevi in una situazione di clima come questo costruire una pista da 70 km, insomma un incubo, eppure ce la fanno ed è davvero una grande mobilitazione collettiva. Insomma, vediamo. Dimmi Carlo. No, mi incuriosiva questo fatto, cioè neve non ce n'è. Sì. Fa caldo, non sono previste nevicate, credo. Ha nevicato l'altro ieri, ma sai, quei 2 centimetri un po' da beffa. Cioè, come fai a fare una pista da 70 km dritta? Allora, vediamo un attimo. Se ci aiuta, abbiamo in collegamento un ospite che si chiama Gloria Trettel, che è la direttrice generale di questa manifestazione. Gloria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Gloria, dico subito una cosa. Come si fa, chiede Carlo Getta. Prima cosa, magari la si riduce un filo. E allora diciamolo, i 70 km sono diventati... 57 purtroppo. 57 purtroppo, ma io penso che abbiate fatto un lavoro straordinario. Allora lasciamo a te dirci come si fa a creare 57 chilometri di tracciato in linea. Ma Si fa con la tecnologia, perché noi siamo dotati qui in TM Fassa di questi cannoni miracolosi che a ogni momento che la temperatura va sotto zero li accendiamo e spariamo neve. Da quant'è che ci state lavorando? Quest'anno, visto che le temperature non sono mai state veramente basse, sono circa 6 settimane che a ogni -2, -3 o -4 produciamo neve. Hai capito, è stata Carlo? non una produzione ingente, magari in una settimana a temperature basse, ma un costante produrre 2-3 ore, poi basta, poi il giorno dopo altre 2 ore, quindi è stata veramente lunga quest'anno. Quindi si garantisce comunque, pure in condizioni, perché purtroppo non ci si può fare niente, non si possono comandare nevicate naturali, si riesce a garantire, pur in condizioni estreme in questo caso, la più importante manifestazione. Sì, fuori fa caldino. Indicavo con la mano la nostra vista, insomma, è primavera oggi pomeriggio a Milano. Ecco, 8.000 persone, dicevo, Gloria, una grande festa popolare, io trovo straordinaria, tutte le grandi classiche del fondo per il coinvolgimento. E so che ogni volta c'è un ruolo fondamentale dei volontari. Sì, sicuramente senza di loro non si fa niente. Alla fine la Marcia Longa è comunque un impegno sociale nei confronti del nostro territorio, anche economico chiaramente, per l'indotto che porta, e si fa grazie a queste persone che sono circa 1200, che chi per una settimana, chi per un mese o chi solo per quel giorno renderà possibile questa manifestazione. Quindi è tutto in mano a loro domenica. Ecco, una domanda volevo farti anche sulla gara, però. Prima Carlo Getta ci raccontava di questo gioiellino norvegese. Io dicevo che, insomma, scandinavi in genere con un ruolo importante e naturalmente gli italiani. Che cosa ci aspettiamo? Ma chiaramente lo sci di fondo è sport nazionale in Norvegia e in Scandinavia, quindi per loro poi venire in Trentino, vedere le nostre strutture, vedere le nostre Dolomiti, loro impazziscono, anche perché sono ben accolti qua. Abbiamo circa 4.000 scandinavi iscritti, quindi la metà, e i nostri italiani sono circa 3.000. Confidiamo magari che ci sia anche un vincitore italiano finalmente. Cioè, ho capito bene, ci sono più scandinavi che italiani, questo non la sapevo. L'invasione, sì. Siamo stati invasi. Ma così per esatto. Curiosità, Gloria, per finire, ma sì. Gigi diceva prima 8.000 partecipanti perché c'è un numero chiuso, ma fossero numeri aperti? Ma non difficile non dirlo. Penso, insomma, non sapremo neanche dove metterli. Non sapremo dove metterli, soprattutto quando affrontiamo come quest'anno solo 57 chilometri, quindi tutti insieme su una pista che va e larga dai 3 ai 5 metri è un po' dura, insomma. Sarebbe un fiume umano invece di una pista di una gara così importante. Grazie Gloria, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie Gloria Trettella. Oh Gigi, faccio onore. Ma come sempre, sai, pettorino, le ultime posizioni, la vista complessiva dalla coda è sempre uno spettacolo. Sei dato il 24, fatto dare il 24. No. 24 il pettorale? Sì. Certo, il 24, chissà chi l'avrà, qualche campione norvegese, avrò l'8.000 compralo, 24. Esatto. Compralo, mettiamo un budget a disposizione per bravo il pettorale Carlo, 24. Grazie. Un paio di euro li metto. Anch'io. Grazie. Grazie Gigi Tonelli. Allora, dobbiamo fermarci per la borsa, poi Carmine, Napoli, Lorenzo, Verona, 800 24 0024, il numero verde. Convocati. Carmine, buongiorno. Napoli. Carmine, buongiorno. Dottore, buonasera. Salve. Buongiorno. Dottore, dica. Prima dell'argomento, se mi è consentito, sì. Fare un complimento alle sue collaboratrici. Sono sì. Di noi una cosa stupenda, benissimo. Bravo, bravissimo. Bene all'utente se li meritano proprio. Bravo Carmine. Dottore, l'argomento è i telecronisti, mamma mia, insopportabile, non gliela faccio proprio. Beh, pardon, non è possibile tenere 5 telecronisti per una partita. Non si mettono d'accordo se è un rigore o non è rigore, se è un fallo o non è fallo. Ci impiegano 20 minuti, dopo 20 minuti si scagliano contro l'arbitro. Automaticamente vuole licenziare, no? Ma poi non sono 5, quanti, sì. Carmine, c'è il telecronista, la spalla tecnica tecnico. E un bordocampista. O due. O due. No, cioè, no, no, perché due, forse Dio due, due stanno in mezzo a campo. Due stanno in mezzo a campo. E poi uno fa il commento. E qualcuno in più sempre ci sta. Sì, uno, magari uno a caso chiede. E beh, sono moderne tecniche per no, non è, no, no, no, no, cioè, no, voglio, piacerebbe loro, un solo telecronista. Dottore, senta, sono ex giocatori che hanno guadagnato un sacco di soldi e potrebbero stare a casa vicino ai nipotini. Quindi i talent, esatto, con un risparmio. Sì, sì, con sì, un risparmio, sì, dell'utente. Di Sky, Premium, beh, no, Rai Sky e così via, anche un euro, va bene. Anche, ma non... perché vigliano più di soldi, penso. Cioè, ho capito, quindi abbonati a Sky, sconto e mandiamo via la... Ben bravo, benissimo, che non hanno bisogno di soldi questi figli. Mica hanno bisogno dei soldi. Ambrosini, via. Anche l'aria d'amico, via. No, che c'entra l'amico? Che c'entra l'amico? No, ma perché non lo so. L'amico mica fa la partita, l'amico. No, però fa il dopo partita, quello va bene così. Vabbè, quello fa un commento suo personale. Questi qua invece mi vogliono inculcare quello che io non sono d'accordo. Ho capito. Io ho sentito una volta tempo fa lei, sì, che lei abbassi il volume della televisione e lo sente per radio. Se lo ricorda? No. Sì, no, io non lo fa, no, io non lo faccio, però dico, se a uno non piace la telecronaca può anche guardare senza audio, lo fanno in molti. Dottore, mi scusi, io pago Sky, io. Dottore, mi scusi, io pago Sky. Capito. Io pago Sky per vedere la partita. Ho capito, però no, questo l'ho capito, però io non posso farci niente, mi creda, se non le piace il commento. A me alcuni telecronisti piacciono molto, per esempio Pardo, ma non perché lavora con me, ma mi piace davvero. Altri mi piacciono di meno e vabbè, ma non è una cosa che mi disturba poi così tanto il commento, che mi piace oppure no. Loreno Verona, buongiorno. Salve. La curiosità mia era anche inerente all'argomento, ma come secondo, forse Pardo era anche più indicato a rispondere, ma come sarà la lotta lì per i diritti Champions tra Mediaset e Sky, che ho sentito le ultime... La lotta è già finita, perché i diritti li hanno assegnati a Mediaset, quindi non c'è più una lotta. Lei dice se si metteranno d'accordo. Perché non penso che Sky rimanga per 3 anni senza Champions. Non credo anch'io. Troveranno... Cioè... È ancora lunga. Comunque, ufficialmente Mediaset ha smentito qualsiasi cosa e quindi a questo noi dobbiamo restare. È anche vero che sotto traccia c'è tanto che si sta muovendo in questo senso. Sì, appunto. Voi che siete, diciamo, dell'ambiente. Ma io le posso solo dire una sensazione. Noi dobbiamo restare all'ufficialità, perché questo è Mediaset 24 ore fa ha detto che non esiste alcuna ipotesi di accordo con Sky, quindi dal 2015 la Champions va su Mediaset Premium e l'Europa League su Sky, punto. I tempi non sono ancora maturi, ma la mia impressione è che gli utenti Sky finiranno qualcosa, finiranno per vedere di Champions League. C'è stato un proposito di Mediaset. Un comunicato del presidente Silvio Berlusconi. Ha parlato il 20° venerdì di Milanello. Cosa ha detto? Berlusconi. Oggi? Sì, adesso lo faccio sentire. Non dovete demoralizzarvi, lo ripeto, che non cambierei la nostra rosa con nessun'altra rosa di una squadra italiana. Sono felice della nostra rosa, voi dovreste essere consapevoli di questo. Non dovete avere paura, nel calcio ci sono momenti buoni e momenti cattivi. Il presidente e tutta la società hanno la massima fiducia nel vostro allenatore e in tutti voi. E le mele marce? No, le mele marce non c'erano. Le mele marce cerchiamo di evitarle, soprattutto Genta e soprattutto Capuano. Di Pardo neanche non parliamo. No, ma anche perché non c'è. L'abbiamo già mandato a Roma per tempo, senza Pullman. E poi se Inzaghi perde, però vediamo. Io dico semplicemente questo, che la nostra è una rosa molto coesa, siamo molto positivi e con una meravigliosa organizzazione di gioco. Avete capito? No, questo per dire che comunque l'ha detto veramente Berlusconi, ha riunito tutti nella sala del caminetto. E il messaggio di oggi, 20° venerdì, di Berlusconi è questo, che Andro Mercù, come sempre, ci ha interpretato magistralmente. Adesso voglio andare a un'altra interpretazione magistrale, quella di Seppi. Yeah, of course. I mean, I walked there to, you know, first of all to enjoy the match. You know, to play against him is always very, very special, and especially on a big court like this. And From the beginning on I was feeling, you know, the ball pretty well. I was hitting. Questo è Andrea Seppi che racconta l'impresa storica per il tennis italiano, per lui, per tutti quanti, la vittoria agli Australian Open, ve l'abbiamo detto in apertura, terzo turno in quattro set combattutissimi, e credo che quel punto, l'ultimo punto dell'ultimo tie break, ce lo ricorderemo per un sacco di tempo, e magari a Stefano Menoccaro a Sky è scappata perfino una lacrimuccia sul microfono, o no? Ma no, perché non sei ancora, senza cuore, non sei ancora, senza cuore. Perché ormai noi siamo uomini rotti. Perché era letto a dormire, Ma sì, per, diciamo, ecco, in primis, poi però dopo me la sono rivista tutta, no, devo dire, insomma, che sai, da una parte ci sono gli affetti, dall'altra ci sono gli affetti veri, per cui questo era il derby veramente del cuore. Però quella palla lì, sull'ultima palla, hai sentito Federer in conferenza stampa, gli hanno proprio chiesto, no? Ma potevi prenderla quella palla lì? Per chi non ha visto la partita, l'ultimo incredibile passante di dritto in corsa di Seppi. E lui ha risposto, quale palla? Quale? E lui ha risposto, ma forse sì, forse no, c'era il sole, c'erano le ombre, ho detto, boh, quasi quasi la lascio, speriamo che vada fuori. Va, è andata dentro, insomma, per fortuna di Seppi. Prima volta che un italiano elimina il re in un torneo dello Slam, perché qualche italiano l'aveva anche battuto, l'ultimo, l'abbiamo detto prima, Volandri Roma 2007, ma era altra cosa. Ma tu non ti ricordi però, Genta, tu non ti ricordi il primo che lo ha battuto? Chi è stato il primo italiano a battere Roger Federer? Indovinello, Gaudenzi? Gaudenzi fu addirittura, credo, il terzo, perché ci riuscì Gianluca Pozzi, ma voglio dire, in un match in influente di Coppa Davis, poi aveva battuto anche Sanguinetti in finale a Milano, e insomma, capito, adesso poi c'è stato Gaudenzi, poi c'è stato Volandri, e poi adesso praticamente non è che sia poi questa grande impresa, ci stai dicendo. Ma come no? Praticamente con gli italiani perde sempre, ragazzi, diciamo. Quando vedi in tabellone un italiano, il gatto nero ha attraversato la strada. Smontiamo le prime pagine di giornali di domani, che tanto tutti avranno la era già tutto previsto, era ma già di tutto. Cosa stiamo parlando? Cosa stiamo parlando? Senti Stefano, per chiudere invece, adesso Kyrgios, Canberra, 19enne, australiano. Ce lo ricordiamo, è diventato famoso nel mondo perché l'anno scorso ha battuto Nadal a Wimbledon, no? Sì. Però in realtà poi da allora era 50, è rimasto più o meno da quelle parti di classifica, non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava. È una partita francamente possibile, poi dopo sai, cioè se ti avessero chiesto prima di Federer se vince, avresti risposto Federer, per cui sai, adesso ti dico Seppi sulla scia dell'entusiasmo, sì. Però è chiaramente una partita, insomma, di livello assolutamente da giocare per tutti e due, ecco. Sì, come detto, direbbe... questo però, detto questo però mi piace farvi notare il sorriso di Federer al momento della stretta di mano, proprio quando gli fai i complimenti, e sembra veramente un amico di Seppi che gli dice, uè, ma ti rendi conto che hai battuto Federer, sono contento per te, cioè la faccia è quella, eh? E anche l'esultanza molto molto carina, molto sobria di Seppi, sì. Quella è una bella scena. Anche la fidanzata in tribuna, ho visto, fidanzato o moglie, non lo so, dici tu, l'ho vista abbastanza partecipe dopo, dopo il punto decisivo. Altro ragazzino ha fatto una gran cosa, cioè. Guarda, no, ha fatto una gran cosa, tra l'altro a proposito di fidanzata, io proprio nello scorso mese di settembre parlavo con l'allenatore di Andrea Seppi, che mi diceva che il ragazzo avrebbe fatto meglio a dedicarsi un pochino di più agli allenamenti e un po' meno agli aspetti extracampo. Evidentemente è successo, se ha messo in campo una qualità come quella di stanotte. Notizie di Mirka, poi c'è il traffico, so, però Mirka no, sai che noi non interessa perché Mirka. Il marito torna a casa, è contento. Allora, è molto probabile che lo picchi. Molto probabile che lo picchi, cioè Federer torna a casa e lo prende e gliele dà. Sì. Bam, bam, bam. Lei accetta sconfitte dai primi 5, se proprio deve essere. Ma non è che posso stare ancora un po' qui, magari faccio un doppio misto con qualcuno, no? Sì, no, al limite top 10, ma insomma, se perdi da Seppi sono bot. Sì, sono mattarellate. Grazie Stefano. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. Grande. Comunque contro Kyrgios, come direbbe Rafa Benitez, ci può stare. Ci può stare. Sì. Andrea Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie alla convocazione. Lei. Volevo parlare di basket. Oh, che meraviglia! No, finalmente. E della squadra di Armani, squadrone in Italia, squadretta in Europa, anche se fa parte delle prime 16, diciamo, europee. perché non riesce a vincere in Europa, perché non riesce a, chiedo un parere a voi, perché non riesce ad andare avanti in Europa. Beh, la partita di ieri è stata molto bella, perché insomma, però tre giocatori sono sopra doppia cifra, loro ne avevano cinque, sì. I turchi, insomma. Ma io lo guardi, l'ho vista, ero al forum, partiamo dall'anno scorso. L'anno scorso invece vinceva in Europa, perché è arrivata ad un niente dall'eliminare quella che poi sarebbe stata la squadra campione d'Europa, e comunque ha fatto una seconda parte di stagione strepitosa l'Armani, in Europa, questo non dimentichiamolo, rifilando Trentelli, Olympiacos, Barcellona, battendo due volte lo stesso Fenerbahce, che però non è più quella squadra. Semplicemente ieri sera ho visto una squadra troppo più forte rispetto all'Armani, una squadra inavvicinabile in questo momento per l'Armani, che ha in panchina il miglior allenatore d'Europa, Zeljo Obradovic, e si vede dopo un anno di lavoro. È una squadra molto più forte fisicamente rispetto all'Armani, e soprattutto è una squadra che nei momenti chiave della partita, cioè nel terzo periodo ha preso un vantaggio di 10 punti, nel quarto periodo lo ha difeso come fanno quelli forti, cioè come l'Armani è riuscita un paio di volte ad avvicinarsi a 4-5 punti, hanno giocato 2-3 possessi offensivi e difensivi perfetti e si sono ripresi alla loro partita. Quindi ieri sera francamente c'è stato poco da dire. Armani mi sembra una squadra in progress ancora, con alcuni giocatori che mi convincono poco, compreso quello che ieri sera è stato il migliore, cioè Marshon Brooks, ma non mi sembra un giocatore in grado di far male, soprattutto a livello di Eurolega. Magari torniamo a parlarne subito dopo il traffico di basket. Sicuramente è stata una partita molto fisica e abbiamo fatto fatica appunto contro la loro fisicità, contro la loro taglia sotto canestro, e niente, hanno dimostrato di essere una squadra veramente molto ben allenata, molto ben organizzata, che ogni volta in cui ci siamo riavvicinati sono riusciti a riscappare via, e quindi complimenti a loro. Convocati. È un girone molto equilibrato, sono tante partite, quindi sappiamo che ogni partita è veramente molto dura, però dobbiamo essere consapevoli che possiamo giocarcela con queste squadre e cercare di migliorare ancora per provare a batterle. E questo era capitano Alessandro Gentile, capitano dell'Olimpia, ieri battuta da un Fenerbahce, dicevo e confermo, al momento irraggiungibile per Milano. Massimo, provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti a tutti. Grazie. Mi dispiace interrompere il discorso basket, ma sono tifosissimo Menzana e tifosissimo del grandissimo Crespi. Grandissimo Crespi, ripeto. Pure noi. Però volevo tornare al calcio. Però a una questione tecnica, non per fare polemica. Mi raccomando a voi. Il discorso è questo, cioè io sono tifoso anche della Fiorentina. Parlo dei rigori di Roma e Fiorentina. Secondo me ci sono una differenza sostanziale, che l'intervento di Zielinski su Paredes, palla piena, palla in fallo laterale, e Paredes va addosso alle gambe di Zielinski. L'intervento del difensore dell'Atalanta, palla piena, però la palla rimane lì. Corre la gamba di ritorno, colpisce Gomez, la palla però è rimasta lì. Io qualche volta ho sentito dire dagli arbitri che se la palla rimane lì giocabile e il giocatore dopo viene colpito dopo dal giocatore, cambia qualcosa nel regolamento. Volevo sapere qualcosa da voi. Ripeto, per me il rigore non c'era, però volevo sapere il regolamento cosa dice. Questo è un discorso anche valido eventualmente per una moviola in campo. Grazie, vi ascolto per radio, complimenti. Moviola in campo, tanta roba. Moviola in campo che non ci sarà mai, perché noi continuiamo a confondere. Beh, poi vediamo Mino Raiola, il presidente in pectore, come la pensa, perché lui la vuole, Io te lo dico subito. Ti dico che per dare una spiegazione a qualsiasi rigore, la spiegazione si trova. La trovano anche per il rigore di Roma-Empoli, se vogliono. Perché è un intervento in scivolata, comunque si assume il rischio di fare l'intervento tagliagambe anche se arriva prima sulla palla, e quindi una spiegazione si può sempre trovare. La sintesi però è quella, cioè quei due rigori non c'erano. Il regolamento non credo che abbia delle postille a questo proposito. Il rigore non c'era per la Roma, non c'era per la Fiorentina, sono due rigori che rientrano in quel quadro della settimana degli aiutini per le squadre più forti, perché questo si è verificato ed è cronaca ed è un dato di fatto, e di conseguenza si prende, si incassa, come giusto che sia, nella maniera più signorile possibile, che però non abbiamo visto praticata da alcuno degli allenatori interessati. Adriano Teramo, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Non so, ti ricordi Genziana, Vinitaly? Sì, come no. Avete bevuto insieme? Abbiamo bevuto grazie a lui, grazie ad Adriano. Tutto a posto, sì, tutto bene. Molto grazie bene. Per la convocazione. Grazie a lei. Dica. Allora, ascolti, io volevo, ho sentito ieri con Pierluigi Parlo, parlavate dell'Inter, di Mancini, sono interista naturalmente. Di questi nuovi giocatori che a Mazzarri non li avrebbero comprati, vabbè, questo è vero, però è pure vero che molti, tipo Shaqiri, lo stesso Podolski, dicono che sono venuti all'Inter grazie a Mancini. C'è un appeal internazionale adesso Mancini, penso, no? Sì. Anche per questo hanno fatto questa scelta alcuni giocatori. Con Mazzarri probabilmente non sarebbero venuti, penso io, da quello che ho potuto vedere, ho potuto capire. Ma è un pensiero, potrebbe essere, certo, è un pensiero anche abbastanza diffuso. Io credo che comunque, cioè, Podolski era praticamente ai margini dell'Arsenal, Shaqiri era in panchina al Bayern di Monaco, ti chiama la Inter, sai, vai con Mancini, a maggior ragione, però saresti andato anche con Mazzarri, sì, al giusto prezzo. Io credo che sicuramente Mancini ci ha messo del suo, sia spendendosi con i giocatori, sia convincendo la società a fare qualcosa. Credo però che sia più ragionevole pensare che ci sia una strategia dietro, che l'Inter abbia scelto, Tohir abbia scelto in questa fase di fare una serie di investimenti, un po' perché probabilmente a giugno avrà le mani un po' più legate dopo che arriveranno tra un mesetto le sanzioni patteggiate con l'UEFA, e un po' perché investire è l'unico modo per provare ad arrivare all'obiettivo. Ma sarebbero venuti anche con Mazzarri secondo te? Magari non tutti, magari giocatori diversi, però diciamo l'idea che a Mazzarri non sarebbero stati consegnati dei rinforzi nella campagna di gennaio, secondo me è un'idea sbagliata, soprattutto in un campionato in cui il terzo posto viaggia ampiamente sotto media e quindi tiene un po' in gioco tutti, perché siamo 7-8 punti sotto la media degli ultimi 10 anni. Certo che la pila internazionale di Mancini è altra roba, questo è innegabile. Giancarlo Perugia, buongiorno. Buonasera, scusa, buongiorno. Buongiorno. Abbi pazienza, sono un po' teso perché è un anno che volevo parlare con voi. Un anno? Addirittura. Comunque grazie per la convocazione. Grazie a lei. No, io chiaramente sono un tifoso romanista. Sì. Il problema mio era questo, io non sono arrabbiato con gli arbitri, io sono arrabbiato con i giornalisti, perché c'è malafede. Allora, io volevo parlare dell'anno scorso, ma lasciamo stare l'anno scorso, lasciamo stare Juventus-Roma. Allora, gol della Roma contro l'Udinese, chiaro? E la palla è entrata, pochi millimetri, quello che mi pare, ma è entrata. O forse no. Ancora non si è capito benissimo. Comunque sia. Va bene, diciamo che è entrata. Rigore contro l'Empoli. Rigore con l'Udinese, abbiamo dimenticato il rigore dell'Udinese. Non c'era. Su Roma Channel, che voi chiaramente non considererete, c'è il fermo immagine con Paredes che tocca una frazione di secondo prima la palla del difensore, che non mi ricordo come si chiamava. Sì. Ma non è questo il punto. Il punto è la malafede, è nel fatto che anche se fosse stato gol quello contro l'Udinese, siccome il giudice di linea non l'aveva visto, non andava dato il gol. Per cui fa fede giù l'arbitro, insomma. No, il problema, amico, è che ha deciso l'arbitro, che era l'ultimo che poteva decidere, era a 20 metri con tra l'altro un paio di giocatori in mezzo. Il tema sul giudice di porta o meno a Udine è questo. No, dobbiamo chiudere, volevo capire da dove era la malafede dei giornalisti, non mi è sfuggita. Però se non aspetti un anno, torni a trovarci magari lunedì o domenica. Domenica alle 5, anzi, prendiamo il numero se vuole. Ne parliamo senza problemi. Ne parliamo con più calma. Grazie Giovanni Capuano, ci ritroviamo domenica. Fabio Cantadori, il nostro regista, Giorgio De Luca, il nostro autore, Daniele Bonamici, redazione. Ciao a tutti.